Signore e signori, benvenuti. Capte ce qui vient au-delà du vent. Stai ascoltando Radio Antidoto. Il personaggio di oggi è una storia. La storia si dipana, come tutte le storie, attorno a qualcosa di centrale. E come tutte le cose che si dipanano attorno a un centro, questa storia divaga. Gira, rigira, si arrovella. Finché non trovo il centro. E quindi, al di là del vento, cominciamo con le ragioni di questa puntata strana, dello zio Fred. Le ragioni sono abbastanza semplici. Sto cercando di scrivere una storia, la sto scrivendo a più mani, con più persone, ed è una storia a cui tengo veramente molto e di cui vorrei fare qualcosa. Per scrivere bene questa storia ho bisogno di informazioni. Alcune delle informazioni che trovo vanno raccontate, e questa puntata è per cominciare a provare a raccontare delle informazioni che hanno a che vedere con questa storia, in modo che comincino a diventare, ad attaccarsi addosso i colori della mia sensibilità motrice. Quindi ho pensato, perché non usare il linguaggio radiocafonico che abbiamo sviluppato oramai da un bel po' per cercare di raccontare questa storia. E mi aspetto la partecipazione entusiasta dei miei 1.000 e più ascoltatori affinché questa storia possa, come dire, cominciare ad essere raccontata, ecco, raccontata. Allora, cominciamo da un punto. Il primo punto è nel tempo e nello spazio. Si tratta di un lago, questo è lo spazio. Si tratta di un lago situato in una zona che si chiama Alta Tuscia o, volgarmente detta, il confine tra Lazio, Toscana e Umbria, quella parte del Lazio che sta su, diciamo, a nord-nord-est di Roma. Da una parte è il Mar Tirreno, dall'altra le montagne Umbre, che non si sa mai bene se sono montagne o colline, e dall'altra parte fiumi e colline, la Toscana. La Toscana in particolare meridionale, che confina da una parte con le paludi della Maremma, dall'altra con la parte collinare della Maremma, che è fatta di colline, appunto. Questa zona qui ha vari centri in cui passi per forza se vuoi attraversarla. Innanzitutto ci sono due vie consolari romani, anzi tre, che passano in questa zona. Più a est di tutte, la Flaminia, che a un certo punto prende e va direttamente verso l'Umbria, per arrivare poi verso Ancona. Via consolare, via quindi militare romana, parte da Roma Nord e va su, verso nord. seguendo per una buona parte la valle del Tevere. Un'altra via consolare importante è la Cassia, che è poi la regina di queste vie che tagliano l'Etruria, andando da sud-est verso nord-ovest, diciamo, nord-nord-ovest per essere più corretti. La Cassia ci interesserà molto. Si divide nell'era moderna, diciamo, in due all'altezza di Nepi più o meno, per avere un braccio che va verso Viterbo, passando dai Monti Cimini, dalla cosiddetta Selva Cimina, quindi attraversa una zona che passa, diciamo, ad est del lago di Vico e una parte ad ovest del lago di Vico, la cosiddetta Cassia Nuova, che taglia qualche chilometro, e arriva a Viterbo da sud. Più andando sempre verso ovest c'è un'altra strada militare romana molto importante, oramai dimenticata, ma rintracciabile nel Basolato, che è la via Clodia, che segue più o meno il tracciato della via Braccianese Clodia, per poi cambiare zona intorno al lago di Bracciano e passare, credo, dal lato est del lago di Bracciano. Ultima sulla parte del mare, la cosiddetta via Aurelia, che arriva su fino verso Genova. Come sappiamo, i romani avevano questo interesse a connettere l'Italia, quindi a vie che andassero più o meno da sud-sud-est verso nord-nord-ovest, seguendo lo stivale. E fin qua ci siamo. La zona che mi interessa, in particolare la zona alta del Lazio, la zona che va tra Viterbo, in su, diciamo, intorno al lago di Bolsena. Questa è una zona dove io sono praticamente cresciuto lì, dove sono andato a cavallo con mio padre e dove conosco diversi posti, posti interessanti che col tempo ho esplorato sia così a piedi con gli amici, sia con lo scopo di farne dei film, di farci delle location per dei film. E fin qua la storia del dove. Ora è il caso invece di parlare di quando. Come tutti sappiamo, il quando è un parametro abbastanza fluttuante, no? Uno stesso spazio può avere tanti quando all'interno, basta entrare dentro le rovine di una chiesa e sentire, come per esempio, ecco, la vecchia Monterano, che è un posto che conosco bene. Se entri dentro questa chiesa all'ora giusta, visto che nel centro c'è un enorme fico, senti le litanie dei preti, le bestemmie dei fedeli fuori, il rumore delle palle dei cannoni dei francesi che la rendono una rovina. Insomma, si sente tanto spazio e tanto tempo nello stesso spazio-tempo. Sta porta poi enorme, barocca, che apre sulla chiesa, su questo spazio, ha ispirato un sacco di cineasti. La vedete in tantissimi film, la vedete dentro la scena del Marchese del Grillo con il Brigante, la vedete dentro i film di Gabriele Lavia sui demoni, ovviamente, e la vedete anche in Lady Hawk. È una bella porta, una splendida porta. In Lady Hawk, a dire il vero, si vede tutta la zona, ma non esattamente la porta, perché, vedi, mi sbagliavo, la connessione viene da un'altra parte. Non si vede la porta perché è barocca, e Lady Hawk è ambientato in Medioevo, se vi ricordate il film. Quindi non ci stava come... Però tutta la prima parte del film è stata girata lì, quindi... Avendo conosciuto anche persone che ci hanno lavorato, mi è scappata la boutade. Bene, allora questo spazio e questo tempo sono un po' il soggetto di questo film, o di questa storia su cui sto lavorando. E adesso vi voglio leggere alcune cose interessanti che ho rimediato nelle ricerche attorno a questa storia. Questo primo pezzo che vi leggerò è da Giovanni Feo, un libro di Giovanni Feo sulle vie cave etrusche. Giovanni Feo l'ho incontrato a Pitigliano nel 13, perché stavo facendo un lavoro per un regista olandese. E quindi lo portai a girare in quella zona e il lavoro consisteva anche nel fare molta pre-produzione e quella che si suol dire pre-produzione artistica, non soltanto nel trovare le location, ma anche nel trovare extra, attori e aiutare a fissare la storia. Fondamentalmente fui un po' il patron di questo film corto. Era un film su un'opera musicale, 20-25 minuti di Rachmaninoff, sull'Isola dei Morti, un quadro famoso di Böcklin. E il quadro, forse ve lo ricordate, rappresenta una barca con sopra alcune anime che, dopo aver attraversato quello che appare essere uno specchio d'acqua indefinito, approda un'isola con delle rocce bianche e uno strano tempio. E quest'isola è l'Isola dei Morti, nella narrativa di Böcklin, del quadro che ebbe tre o quattro versioni, di cui una è famosamente dannata perché era il quadro preferito di Adolf Hitler, lo teneva sulla sinistra del suo studio privato, nella cancelleria del Reich, guarda caso. E questo quadro di Böcklin, pubblicato in bianco e nero su una rivista, ispirò però l'immagine, ispirò moltissimo Rachmaninoff, famoso pianista e compositore russo, per scrivere questa opera, operetta, che si chiama L'Isola dei Morti. E questo regista, di cui non vi farò il nome, decise di fare un progetto su questa cosa e si fece aiutare da me. Ecco, questa più o meno la storia. Dunque, quando vidi il progetto, ebbi subito l'impressione che lui voleva girare in Siria. E gli dissi: ma no, guarda, questo non è un paesaggio siriano, questo è un paesaggio altolaziale, anzi io so esattamente qual è l'isola che ha ispirato Böcklin. E pensavo all'isola bisantina nel lago di Bolsena. E non ci ero andato molto lontano, anzi secondo me ci avevo proprio azzeccato, perché a parte la conformazione delle rocce, i cipressi, che sono ovviamente cimiteriali toscani, Böcklin ha effettivamente vissuto molti anni a Firenze, era un po' un pittore, paesaggista, ritrattista lì, e quindi era legato alla Toscana, a quei paesaggi, in particolare l'Alto Lazio si prestava, questo lago si presta benissimo quel tipo di tratto, quindi se volete andatelo a vedere, ecco, potete andare a vedere il quadro L'isola dei morti di Böcklin e avrete un'idea dell'isola bisantina del lago di Bolsena. In realtà le isole sono due, ma ci arriveremo piano piano, ci vorranno un po' di puntate per arrivare a raccontare esattamente le isole. Comunque, ecco, già che parlo, anzi, è un quarto d'ora che parlo, ancora non vi ho detto quasi niente. Fatemi schiarire la gola. Insomma, vi voglio leggere qualche cosa sugli Etruschi, che è uno dei tempi su cui questa storia va o andrà a battere. E giusto appunto, un capitolo che parte da pagina 11, giusto appunto, del libro di Giovanni Feo, e si chiama Lo spazio e il tempo sacri. E va così. Una delle caratteristiche meno conosciute della civiltà etrusca concerne la basilare importanza che ebbero le dottrine e i culti astrali nell'iniziale periodo formativo della storia degli antichi Tirreni. Le linee e i punti ottenuti unendo fra loro gli astri maggiori dettero forma a delle configurazioni celesti e astrologiche nel momento in cui storie, miti, storie essenziali alla formazione dell'idea di una popolazione vengono messe nel cielo, nella mitologia. Queste configurazioni diventano storie, quindi sono storie che salgono al cielo. Queste storie furono la prima mappa a dare senso e direzione al caotico e sacro mistero della vita che dalla Terra arriva a riflettersi nei lontani spazi siderali dove grandiosi scenari della creazione non possono altro che amplificare e codificare la sacralità del mistero. Ecco, questo ci racconta, non è che io sia troppo d'accordo, eh. L'antropologo che è in me non è proprio d'accordo che ci sia questa connessione unidirezionale. È un po' successo, diciamo, nella nostra civiltà mediterranea. Comunque andiamo avanti. Presumibilmente, ci racconta De Feo, è all'antica Caldea, all'impero egizio, che bisogna guardare per trovare gli iniziali punti di diffusione di quelle dottrine che studiavano la volte celeste, astronomia e astrologia, e dalle quali nei secoli si svilupparono disparati, scusa, culti tradizionali che sotto la forma di scienza sacra penetrarono infine in tutto il Mediterraneo, diffondendosi via via presso le più lontane civiltà. Quindi, culti misterici astrali che connettono varie civiltà intorno al 1000 avanti Cristo, prima età del ferro, o comunque età del ferro, e che si diffondono lungo tutto il Mediterraneo partendo dalla Mesopotamia fondamentalmente e dall'Egitto. Le premesse di base delle dottrine astrali risalivano comunque a concezioni antichissime, sviluppatesi nella notte dei tempi presso civiltà e razze ormai dimenticate. E qui De Feo ci dice che lui crede in Atlantide. Benissimo. Ciò che avvenne in Egitto e in Caldea fu l'adattamento di antiche conoscenze intorno agli astri, alla volta celeste, e la loro trasformazione in dottrina di culto istituzionalizzata. Cioè, lui dice fondamentalmente queste conoscenze vengono introdotte all'interno della religione istituzionale che era quella sia babilonese che egiziana, in particolare quella egiziana dove il faraone è anche Dio, ricordiamoci. Importanza dell'osservazione del mondo degli astri, patapì patapà, storia, identità storica, eccetera. Ma ci dà questa informazione. I magi caldei arrivarono a definire il cosiddetto grande anno, ovvero un periodo di 12.960 anni che corrisponde alla metà della precessione equinoziale. Cioè, i magi caldei sapevano esisteva una precessione degli equinozi di circa 24.000 anni, in cui il polo della Terra cambia. Questa informazione è assolutamente discutibile, perché lui parla di Magical Day, secondo delle fonti che potrebbero parlare tranquillamente di epoca ellenistica e non del 1500 a.C. Comunque, questa cosa per la nostra storia non è importantissima. È ben nota quanto l'importanza dell'armonia delle sfere rivestisse presso gli Etruschi la concezione ciclica del tempo, fattore determinante nella religione, nella filosofia e nel vivere quotidiano di quel popolo. Tale concezione, divenuta ormai involuta e irrigidita in formali ritualismi, quando non più compresa, contribuì allo sviluppo di quella cupa e opprimente presenza del fato che caratterizzò la fase finale di decadenza della civiltà etrusca intorno al V secolo a.C. Allo scadere di ciascun anno e di ciascun secolo, presso il sacrario della dea del fato, Nortia, veniva ripetuta una singolare cerimonia sacra. Un sacerdote infiggeva un chiodo di ferro su di un sito consacrato, una colonna o un albero, così che a ogni chiodo infisso corrispondesse un anno, in modo da poter perpetuare il corretto computo temporale. Una celebrata tradizione riporta che gli Etruschi conoscessero già in anticipo la durata della loro civiltà, che si consideravano destinata a terminare nello spazio di 10 secoli. E qui ci manda una nota che vado a vedere, perché sono curioso di sapere. Dunque, 10 secoli non corrispondono esattamente a un millennio, poiché per gli Etruschi ogni secolo aveva una differente durata. Secondo alcuni autori, la durata era determinata dall'età raggiunta dal membro più anziano della comunità. Ma questa è una nota un po' incomprensibile. Sconcertante come tale profezia si sia rivelata esatta, dato che il ciclo etrusco ebbe inizio verso la prima età del ferro, X secolo a.C. circa, ed ebbe termine con l'inizio della storia imperiale di Roma, primo secolo d.C. circa. E ci racconta De Feo che in effetti questa civiltà, una volta recuperata, diciamo integrata dai romani, da Roma, sparì. Piano piano venne ridotta al silenzio e poi all'oblio storico e culturale. Esistono molti miti in proposito, di cui vi parlerò tra poco. Anche non solo miti, anche storie che ho sentito io da bambino, che mi ricordo molto bene, che sono importanti per creare la mia storia e non tanto hanno la necessità di essere verosimili o vere. Comunque una storia è sempre vera una volta che viene raccontata. Quindi. La dottrina che fece da costante centro di gravità la nascita degli insediamenti etruschi in Italia e la fondazione rituale della prima dodecapoli fu la cosiddetta geografia sacra, la più antica dottrina specializzata nella consacrazione del territorio, il cui fine fu di interagire con il sacro, il sacer, della terra, cioè una dottrina astrale. Quella babilonese, diciamo, che arrivava su quel territorio, trova necessario ovviamente radicarsi nella terra, e la geografia sacra è il modo con cui, diciamo, gli antichi architetti, massonissimi anche loro, creavano una corrispondenza tra il cielo, la mappa delle storie nel cielo, e la terra, cioè la mappa dei luoghi dove le storie dei viventi si sarebbero svolti. Le piramidi egizie, le ziggurat mesopotamiche, gli obelischi, i megaliti, i tumuli, i labirinti di Creta e di Malta, le pietre, i monumenti orientati in modo speciale, sono tra l'elenco di quelle opere nate come centri magico-sacrali. È alquanto lungo, in conclusione, è importante capire il senso per nulla primitivo delle concezioni cosmologiche che produssero quei monumenti. anche noi oggi abbiamo bisogno di fissare dei centri per far sì che una città, un paese, un luogo si sviluppi. Molto spesso questi centri sono dati soltanto dalla opportunità politica o economica, sono quindi privi di anima. Mi ricordo quando andai in Cina all'università di Guangzhou, uno degli architetti presenti, dopo il mio workshop, molto divertito, interessato a quello che facevo, mi chiese di prendere un caffè assieme, ci facemmo una chiacchiera e mi chiese un pochettino, secondo me, perché queste grandi città che loro costruivano in 6 mesi, città da 2 milioni di abitanti, rimanessero vuote. E io cercai di spiegargli, nel nostro inglese poco comune, di spiegargli con altre domande fondamentalmente, che la mancanza di un centro, non soltanto nel terreno, la piazza principale, ma nel cielo, nelle storie, rende il posto sterile e quindi la gente ce la devi costringere ad andare a vivere per farcela vivere, perché non ha storia, anzi, non ha ster. Se non ci stanno le storie, le stelle, è difficile dare un orientamento alla terra. Stessa cosa se la terra non ha orientamento e quindi non ha inizialmente un centro, un grido, un punto che è più punto degli altri punti, la terra è sterile. Dunque, ritorniamo al nostro libro, che dà molte cose interessanti. Innanzitutto ci racconta, questo sintetizzo un po', che la civiltà etrusca aveva un modo di sviluppare il terreno che era in 12 settori, secondo una corrispondenza, una volta appunto il centro, una corrispondenza tra il cielo e la terra che era determinata dalle costellazioni dello zodiaco, che sono la ruota che si muove durante l'anno con le varie posizioni delle varie stelle nel cielo osservabile, si muove durante l'anno e lungo il cui sfondo si muovono i 7 pianeti visibili in movimento, che sarebbero Luna, Sole, Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno. Sono i detti movibili. Poi c'è la superficie della Terra, che già allora sapevano probabilmente essere una sfera, ma che comunque viene data come sfera già dai greci nel V secolo, come ben sappiamo, e la direzione in cui avrebbero diviso la popolazione, che per gli etruschi sono le locomunie, per esempio per le tribù degli ebrei sono le 12 tribù di Israele, eccetera, eccetera, eccetera. In tutto il Mediterraneo si osserva questa idea, e l'Asia Minore inclusa, che la miglior divisione è quella in 12, così come il cielo si divide bene in 12. Ora, è vero che è un'ottima divisione quella in 12, ma voi lo sapete perché? Perché 12 è il massimo comun divisore di 5, 6, 3, 4, insomma, se puoi dividere per 12, puoi dividere, se c'hai 12 pezzi, sono il modo migliore di dividere qualcosa. L'ho detto malissimo, scusatemi, il mio prof tanto non mi sente, ma insomma, l'ho detta malissimo. 12 si divide in 3 e fa 4, 4, 4, si divide in 2 e fa 6 e 6, si divide in 4 e fa 3, 3 e 3, e quindi è un buon modo di dividere qualcosa, mettiamolo così. Che forse si capisce meglio. Mannaggia a me la madre. Secondo questa divisione, guarda caso, Roma posta il centro, ah sì, il centro dove lo mettono gli Etruschi? Nella selva sacra destinata al proprio dio principale, Vesna, che è posta tra Bolsena, Orvieto e, diciamo, i Monti Cimini, la cosiddetta selva Cimina, che doveva essere enorme all'epoca. Guarda caso, Bomarzo, finisce praticamente nel mezzo di questa selva, l'attuale Bomarzo, dove ci sta il Parco dei Mostri e dove ci sta la Torre di Chia, per esempio. Dunque, la selva è il centro, andando a vedere le varie costellazioni, la costellazione dei Gemelli, che all'epoca era la costellazione del cavallo, tant'è che i due Dioscuri a cavallo sono sulla piazza del Quirinale, è la costellazione che definisce un settore nel quale c'è Roma, guarda caso. La città di Tarquinia nel settore del Toro, nel settore, diciamo, di Sovana. Fino verso Arezzo ci sta la Sirena, che è la costellazione dell'Acquario, e così via. La Sirena, poi ci torniamo sopra sulla Sirena perché è importante. Quindi ecco, abbiamo tutta questa serie di interessantissimi particolari su questa geometria, geodesia sacra. Mettere insieme il cielo e la terra, avere un centro, costruire un popolo con una narrazione e legarlo a dei principi che si chiamano dei per comodità e a delle usanze e a dei modi di parlare con i vivi e con i morti. E questo fu ciò che fecero gli Etruschi. Loro bosco sacro, il centro è un bosco, il bosco sacro è un qualcosa di tipicamente etrusco che i romani erediteranno, le città hanno un doppio, la città dei morti che è vicino alla città dei vivi, e come se la terra venisse folgorata da dei fulmini, le vie cave tagliano la città dei vivi, i luoghi vicino alla città dei vivi, per connetterli con i luoghi della città dei morti. Queste vie cave, che non si spiegano molto facilmente, sicuramente non si spiegano come vie d'accesso dalle forre e fuori dalle forre che circondano le città etrusche, sono fulmini che colpiscono la terra, o almeno tracce terrene di un fenomeno celeste terreno che è il nuptius, la congiunzione tra il maschile e il femminile, tra il cielo e la terra. Guarda caso, una delle prove che anche De Feo mette sul tavolo della vicinanza tra la civiltà, diciamo, che viene dal Medio Oriente e la civiltà etrusca è questa capacità di guardare e di fare divinazione da due cose: dove cadono i fulmini, e quindi come cadono, che traccia lasciano, e le viscere degli animali sacrificati, cioè la conformazione del fegato. Ci sono vari miti su come queste conoscenze fossero state acquisite dagli Etruschi. Il più interessante è quello di un deuzzo, quasi un folletto, che esce dalla terra quando il dio etrusco Lara, che sappiamo essere l'atto che segna la fondazione delle loro città, il giro in tondo con l'aratro, fecondare la terra da uomo, da essere umano, e creare un cerchio intorno al centro, no? Definire un centro e fare il cerchio come con dei buoi girando l'aratro. Da questo solco dell'aratro esce fuori un ometto, letto un piccolo dio, un dio del coperto di terra, che racconta al dio taumaturgo i segreti del luogo. Ora, questa cosa mi ha sempre fatto pensare al fatto che esistono delle tombe arcaiche etrusche in cui il posto per il sarcofago è piccolissimo, 1,20 m, che sembrano tombe di bambini. E mi ha sempre fatto pensare a questa cosa, ovviamente non vera, sarà una mia fantasia, che il popolo che stava in Italia prima degli Etruschi fosse molto più piccolo di loro, fossero molto piccoli, che questi due popoli si siano uniti l'uno nell'altro e questa cosa rimanga nelle storie mitiche, le storie di fondazione. E il popolo che era prima, il precedente, era sicuramente molto più legato alla dea femminile, che è un pantheon in cui ci fosse una coesistenza tra il maschile e il femminile. Noi sappiamo che gli Etruschi avevano una società in cui la donna era pari all'uomo e in cui il nome del figlio andava secondo leggi matrilineari e non patrilineari. Sappiamo ove più che precedentemente c'era una religione della terra, assolutamente della terra, intorno al Mediterraneo, e quindi femminile, legata a riti di fertilità e in cui l'apporto del femminile era sicuramente più importante che quello del maschile. Andiamo tra un po' vi racconto qualche altra cosa. Nel frattempo provo a mettere un po' di musica. Questo è il gatto che è ucciso. Sì, con la sua grazia è saltata dalla sedia. E penso vi metto vi provo a mettere qualche cosa di questo tipo, vediamo un po' se funziona. Più o meno. Ecco qua. Ma questo lo potrei pure tenere sotto, fa abbastanza schifo, fa paura, non lo so. Ah, se mi state ascoltando, se qualcuno di voi ha il coraggio di farmi sapere che mi sta ascoltando, può tranquillamente scrivere come al solito su Ascoltatori meno radio meno antidoto, che dovrebbe diventare Ascoltatori più radio più antidoto, che sarebbe il nostro canale Telegram di ascolto. Nel frattempo tiro giù questa schifezza che ho messo e provo a mettere qualcosa di meno impegnativo sonoramente per starmi sotto. Intanto ringrazio Gabriele Asbesto per i suoi suonacci che sono bellissimi e che io uso questi giorni a bizzeffe. Ecco, peccato di un po' di musichetta, torno tra 2 minuti. Promesso. Questa trasmissione un po' balsanotta che sto facendo oggi. Comunque, riassumendo, un centro, la selva, intorno al lago, quindi la selva e il lago, delle storie nel cielo, la divisione in 12 settori, i 12 settori connessi con 12 animali, tant'è che si chiama lo zodiaco, come zoon in greco, il cerchio di animali a cui chiedere il permesso e il potere, perché non dimentichiamoci che fin tanto che l'uomo non ha cominciato a usare il fucile, quando incontra un animale serio deve fare molta attenzione. Non è proprio facile ammazzare un cinghiale con le mani nude, neanche in 5 o 6, bisogna essere una ventina, coi cani, le lance, insomma, è complicato. Quindi 12 fasce territoriali, ciascuna governata da un suo centro principale che veniva chiamata la Lucomonia o Lucumonia, non lo so. Queste 12 regioni dipendevano ognuna da un altro centro che diventava a sua volta un centro polare, che diventava il punto di riferimento di un'unione confederativa. Tant'è che i romani se li mangiarono tutti. Se però i romani li consideriamo degli etruschi bastardi, come di fatto erano, e dediti alla prostituzione sacra per fare i soldi, insomma, una specie di barbari mafiosi dell'epoca, capiamo che quel tipo di energia può raccoglierle tutte le altre. All'interno di quest'area consacrata c'era il tempio del dio principale, il tempio del dio Velta, detto dai latini Voltumna. Quindi lì il mostro, la faccia del mostro del giardino di Bomarzo. A quel posto tutti gli etruschi guardavano come fosse il Vaticano, la Mecca, era il centro religioso. Ogni anno c'erano varie processioni, gente che partiva, andava lì apposta, eccetera, eccetera. Cioè, c'è un movimento costante di persone, merci, feste, eccetera, eccetera, che va verso non la selva, che altrimenti non sarebbe tale, ma i dintorni della selva, che quindi comprendono il lago di Bolsena, il lago di Vico, forse, il lago di Bracciano, che è un po' troppo a sud, è un po' troppo sotto il dominio di Vulci, quasi troppo vicino a Roma, eccetera. Quindi l'Ombelico è il lago di Bolsena, non c'è dubbio. La ricostruzione di questa proiezione zodiacale l'ha fatta un francese, un certo Jean Richet dell'Académie Française. Non sono ancora riuscito a trovare quest'opera, la sto cercando. Vi è una vasta serie di tempi e monumenti sacri inseriti nel territorio e, secondo De Feo, tutti questi monumenti, templi, eccetera, hanno a che vedere, comunque, il loro orientamento, il loro significato, le bestie che ci sono sopra, hanno a che vedere con questa divisione in 4 settori di 3, 4 e 3, 12, che è propria del lago di Bolsena. Quindi abbiamo un settore di qua, il settore sono 4, con due segmenti che si uniscono in modo perpendicolare, quindi 1 cerchio, 4 quadrato e diventa 12 dodecagono, le 12 locumonie. Bene, andiamo a vedere la grande dea. Abbiamo ancora quanto? 20 minuti. Vi racconto cosa ci dice Giovanni Feo della dea. Il capitolo si chiama Le vie cave, è molto interessante, e parla della grande dea dei misteri di Eleusi e Samotracia, venerata sotto altre forme a Malta, nell'Egizia Sais, a Efeso, chiamata Diana presso il bosco sacro di Nemi, Feronia dai Falisco Sabini, Proserpina dai Romani, quella realtà che non fu mai una sola dea, ne furono tantissime. Tant'è che Apuleio ci fa presente Feo nella sua opera strana sull'asino, molto importante, ci dice che fa dire alla dea che è invisibile la sua essenza divina, ma che nel mondo sono venerata ovunque sotto molteplici forme, con riti diversi e sotto differenti nomi. Perché ovviamente se la dea è femmina, fondamentalmente non può che essere tantissime cose contemporaneamente. Può essere la ninfa delle acque, può essere la dea della caccia, può essere dea della maternità, delle messi, della frutta e verdura, può essere tantissime cose, no? In particolare Proserpina è legata al mondo dei morti, perché viene portata nel mondo dei morti, no? Connessa con l'idea della melograna, il mito della melograna, questa melograna che poi torna in tantissime storie intorno al lago di Bolsena, appunto. La grande madre terra era anche la dea bianca. Ora, la dea bianca De Feo dice, la chiama la luna. È un tema che ricorre negli antichi culti della terra, quello relativo alla dimora della dea, il sottosuolo terrestre, dove veniva situato il mondo dell'oltretomba. La regina degli inferi, Persefone o Proserpina, era ancora un altro dei suoi multiformi aspetti. Quindi, la luna, la regina della notte, degli inferi, multiforme, cambia faccia, cambia forma. Interessante, no? Spero che vi stiate intrattenendo, come queste storie intrattengono me, in fin dei conti, molto, molto, molto bene. Ecco, molto bene. Boh, sono passati 47 minuti e vi ho raccontato a malapena una frazione infima di questa storia. Non so se questo tipo di trasmissione ha senso per voi, perché per ora mi sembra che non ci sia nessun ascoltatore, no? Controllo. Ma mi pare proprio di aver fatto scena a me medesimo, vediamo un po'. E vedremo, lo metto da qualche parte, vediamo chi se la sente sta cosa e chi mi dice se ha sentito. No, mi dice che ci ho avuto anche 5 ascoltatori, ma siamo rimasti in 2. Quindi, però è sempre valida la cosa che la radio, anche se si fa online, almeno un ascoltatore c'è sempre. Quindi, ecco. Questa per dirvi che Etruria meridionale, che però è il centro dello sviluppo della città etrusca, che poi si sviluppa secondo altri centri, ma meno antichi, verso nord-ovest, nord, Volterra, Chiusi, eccetera, eccetera, fino ad arrivare addirittura in Etruria, Emilia, al di là della zona di Firenze. E anche, guarda caso, quello stesso luogo, il posto dove si è sviluppato il neoplatonismo italiano, e quindi tutto quanto di esoterico c'era nel Rinascimento, fondamentalmente. Quindi è un posto estremamente interessante, dove tutti questi tempi si compenetrano, diventano un tempo solo, e qui capite che la tentazione di costruirci storie dentro è enorme. E come tutte le storie, come le storie che abbiamo messo come civiltà, come umani nel cielo o abbiamo scritto in terra, è una grossa tentazione di cercare di andarci a lavorare dentro, a stringere, allentare, a cambiare qualche rotella, a scrivere la propria versione, sia come persone, con la nostra vita personale, sia come raccontatori di storie, qualsiasi sia l'arte che vogliamo usare per farlo, sviluppare da zero per farlo. Quindi ecco, vi ho fatto abbastanza pippetta oggi, grazie di avermi ascoltato fin qui. Se vi piacerà ne farò altre di puntate del genere. Voglio ringraziare i compagni di Bisboccia, in particolare la mia preferita compagna di Bisboccia, che sta aiutandomi a scrivere alcune di queste storie in qualcuna delle tante forme possibili. E basta così, vi chiudo qua, vi lascio alle onde, fatemi sapere se sta forma funziona oppure no. Un saluto dallo zio Fred e da Radio Antidote.